got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Il signor soprano? Sì. Sono Noah Tannenbaum. Senti, ma voi due, tu e Medo, state... Ancora non lo so. Da dove vieni, Nathan? Noah. Sono di Los Angeles, zona est. No, quello che intendo è... La mia famiglia lavora nel cinema, il famoso show business, lo chiamano così. I film di Tarzan? No, no, mio padre fa l'avvocato dei divi. Ah. No, volevo dire che noi siamo di origine italiana. Ah, cioè, per questo mio padre è ebreo e mia madre è afroamericana. Tannenbaum, certo. Ma sul modulo dell'università non c'è scritto che sei ebreo. No, non sono messe domande di quel genere. Ah, certo, naturalmente. E che hai messo? Afroamericano. Quindi ci capiamo noi due, sei nudezzone. Mi scusi? Una carbonella, faccetta nera. Qual è il problema? Io penso che hai capito benissimo. La tua amichetta là sopra non ti ha fatto un gran regalo a portarti qua. Io non so che cazzo pensava. Poi ce lo dirà, eh? Vedi, tengo molti soci di colore, però non mandano le figlie con mio figlio e io non mando coi loro la mia. Vado a farsi fottere. È proprio quello che cerco di evitare, faccetta nera. Così quando mia figlia scende le scale, le dici che ti sono molto simpatico. Poi quando sarete uscite di casa, la lasci per sempre. That's the story of... That's the glory of love. Bentornati a Indovina chi viene a cena, scusate la voce, la stagione ricomincia sotto i più cattivi auspici dell'influenza del raffreddore, ma noi siamo sempre qui a darvi spazio a questi temi che ci interessano, come quelli del razzismo, dell'identità, della migrazione. Lo faremo anche quest'anno cercando di raccontarvi storie il più possibile interessanti e con delle suggestioni cinematografiche e televisive. Come avete sentito, le abbiamo un po' aggiornate, oltre al nostro film al quale ormai ci siamo affezionati, Indovina chi viene a cena, anche la serie televisiva I Soprano, un brano tratto da un film di Spike Lee, e ne sentirete altri. Stasera parliamo di una iniziativa molto originale della provincia autonoma di Trento che ha a che fare con le biciclette. Domani infatti tre richiedenti asilo ospitati in Trentino parteciperanno a una prestigiosa manifestazione cicloturistica vintage, tra l'altro si chiama Eroica, e è la testimonianza in questo caso per la partecipazione di tre di loro della forza della bici come strumento di integrazione contro il razzismo, il tutto promosso da un'associazione di Trento che insegna ai rifugiati anche come riparare e costruire le bici, dando quindi anche l'opportunità di imparare un mestiere. Ma dove vai, bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con orologio, le gambe snelle. Questa manifestazione cicloturistica è l'Eroica, una corsa in bici di 75 km su strade del Chianti con attrezzatura e vestiario antecedenti al 1987, quindi anche molto vintage, ed è promossa dalla provincia di Trento che si occupa di migranti e sistema di accoglienza, dall'Unione Italiana Sport per Tutti e dall'Officina Richiedenti Asilo. Per veicolare questa iniziativa c'è anche una pagina Facebook che potete trovare, la bici contro il razzismo. I tre migranti correranno anche con due cicloamatori trentini, Martino e Tommaso, e il primo dei nostri ospiti per raccontare questa avventura sulle due ruote è proprio Tommaso Iori. Innanzitutto benvenuto Tommaso. Grazie dell'invito. Tu sei presidente dell'Unione Italiana Sport per Tutti e parteciperai domani mattina a questa Eroica, che già dal nome insomma si capisce che sarà uno sforzo non da poco per te e per i tre richiedenti asilo che parteciperanno. Sarà un momento molto bello perché è il culmine di un percorso che stiamo portando avanti da diversi mesi qui in provincia di Trento, e con al centro appunto la bicicletta come strumento di integrazione e inclusione sociale. rivolto alla popolazione dei richiedenti asilo e dei profughi che sono ospitati qui sul nostro territorio. Quindi è solo un punto d'arrivo di un percorso che state facendo attraverso anche un periodo di tempo che vi ha portati a fare altre corse, no? Sì, noi tutto nasce dal fatto che siamo riusciti, grazie al contributo degli organizzatori dell'Eroica, ad avere 5 numeri gratuiti per poter partecipare a questa grande manifestazione di cicloturismo vintage. 5 numeri vuol dire proprio 5 pettorine? Esattamente, 5 iscrizioni sostanzialmente. Non è, sembra semplice raccontata così, in realtà non lo è, perché i 5.000 numeri disponibili vanno via nel giro di una mezza giornata praticamente, perché in questi anni è una di quelle manifestazioni che ha assunto davvero un significato, un'importanza a livello internazionale. Quindi innanzitutto vogliamo proprio ringraziare gli organizzatori per la disponibilità. Una volta avuta la certezza appunto di avere questi numeri, abbiamo deciso di organizzare un percorso che ci portasse appunto al 2 di ottobre. Siamo partiti in luglio grazie al sostegno della provincia autonoma di Trento e di alcuni soggetti che si occupano dell'accoglienza qui sul nostro territorio, e con una serie di escursioni collettive che hanno portato abitanti trentini e richiedenti asilo a percorrere insieme pedalando le nostre ciclabili. In particolare poi abbiamo individuato 3 ragazzi che avrebbero partecipato appunto con me e Martino alla corsa, e con loro invece abbiamo fatto una serie di allenamenti un attimino più specializzati. Come li avete scelti questi 3 richiedenti asilo? Ma li abbiamo scelti sulla base della disponibilità, innanzitutto della voglia che hanno dimostrato di partecipare attivamente a questo percorso, e in qualche modo anche a una serie di competenze pregresse. E non è scontato che tutti i ragazzi che vengono accolti sul nostro territorio sappiano andare in bicicletta, perché comunque in Africa non è uno strumento così diffuso, e in particolare appunto ci vuole una competenza un po' più specifica, perché come dicevi tu prima si tratta di biciclette e cosiddette eroiche, quindi costruite prima del 1987, e la corsa si svolge su strade bianche, quindi un po' di dimestichezza con il mezzo ci vuole. Perché le biciclette contro il razzismo? Che cos'ha questo mezzo di particolare? I fattori secondo me sono molti. Innanzitutto il ciclismo è uno sport dall'anima popolare da sempre, e in secondo luogo la bicicletta è anche uno strumento di libertà. Saper andare in bici ti permette poi di muoverti negli spazi urbani in maniera libera ed emancipata, quindi fornire anche a questi ragazzi la possibilità poi di utilizzare un mezzo e non solamente in occasione appunto di alcune uscite, ma poi nella loro quotidianità, è un momento di costruzione di fatti di libertà. E in terzo luogo è anche un meccanismo di promozione della salute. Sappiamo quanto è difficile promuovere salute in un contesto complesso appunto come quello delle comunità migranti, e quindi sappiamo altrettanto bene quanto è importante fare attività motoria per la salute individuale e collettiva, e quindi si sono unite tutta una serie di fattori che abbiamo fatto convergere all'interno di un unico progetto. Ma dove vai, belletta in bicicletta, così di fretta pedalando con Arodò? Le gambe snelle, tornite belle, m'hanno già messo la passione dentro al cuore. Ma dove vai, con i capelli al vento, col cuor contento e col sorriso incantator? Se tu lo vuoi, o prima o poi, arriveremo sul traguardo dell'amore. Se incontriamo una salita, io ti sospingerò, e spingendoti alla vita. Ma l'hanno presa con un grandissimo entusiasmo. Teniamo conto che sono persone che purtroppo, in attesa appunto di avere una risposta alla loro domanda di asilo politico qui in Italia, trascorrono spesso le giornate senza avere grandi impegni. E quindi lo sport può diventare un momento, da un lato, di occupazione anche del tempo libero, di divertimento, ma dall'altro anche un meccanismo di inclusione sociale, di integrazione con la popolazione locale. Per cui loro davvero si sono gettati con un grande entusiasmo in questo progetto, perché ci hanno riconosciuto una possibilità di conoscere altre persone, e soprattutto persone che non fanno parte della loro quotidianità, delle loro cerchie più strette, e in più sono ragazzi molto giovani, per cui hanno un dinamismo e una vitalità enorme, e la possibilità di poter imparare ad andare seriamente in bicicletta è stato per loro un momento davvero molto molto bello. E è chiaro che, come dire, la dimestichezza con il mezzo non è ancora altissima, però appunto in questi 3 mesi siamo riusciti a migliorare non poco le performance. Una salita io ti sospingerò e stringendoti alla vita d'amore ti parlerò. Ma dove vai, belletta in bicicletta? Non aver fretta, resta un poco sul mio cuore. Sono ragazzi che vengono dall'Africa subsahariana soprattutto, e la media dell'età di queste persone è molto molto giovane. Mi pare che la media sia intorno ai 25 anni. In particolare e i ragazzi che parteciperanno con noi alla gara hanno tra i 20 e i 26 anni più o meno, e uno viene dal Mali, uno viene dalla Guinea e un altro viene dal Ghana. La cosa divertente ad esempio è che Ibrahim, che viene dal Mali, che pur nella sua terra d'origine ci ha detto che correva in bicicletta, partecipava a piccole competizioni, e la prima volta che ha visto una salita si è un attimino spaventato, perché ci ha confessato che da dove viene lui salite non ce ne sono molte, così come, non conoscendo le salite, non conosce nemmeno le discese, quindi una delle cose più difficili da insegnare è stato l'utilizzo dei freni, ad esempio. Ci fermiamo brevemente, torniamo tra pochissimo a parlare con voi di questa esperienza trentina in bicicletta con i migranti, con i richiedenti asilo. A tra poco. La prossima volta verrete a cena da noi. Sentirete il mio caviale alla cuillère. Sono certo che vi piacerà. E Floranza ci preparerà la sua macedonia con vodka e acquavite. Sì, sì, sì, sì. La sua sensibilità si accorda con la sua coscienza umanitaria. Ma se lei vuole rifiutare le idee acquisite, allora bisogna che le sostituisca con una morale personale. Raffaele. Sono Giovanni Minoli. Tutti i giorni, Mix 24, in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia, i gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Bentornati da Valentina Furlanetto, anche se la voce non è la mia, lo sentite, sono terribilmente raffreddata, vi chiedo scusa. Bentornati comunque a Indovina chi viene a cena. Stasera parliamo di un'iniziativa davvero divertente e utile per far partecipare i richiedenti asilo e i migranti alla vita che si fa in Italia, anche riparando, costruendo bici, partecipando a manifestazioni cicloturistiche come quella di domani, l'Eroica, alla quale si sono iscritti 2 ciclomotori trentini insieme a 3 richiedenti asilo. Domani partiranno, faranno questi 75 chilometri, non è uno scherzo, su strade bianche del Chianti, con un'attrezzatura e un vestiario vintage. Grazie a Tommaso Iori, presidente dell'Unione Italiana Sport per tutti, sezione Trentino, per essere stato con noi stasera. Grazie, buona pedalata. Grazie Valentina, grazie mille. La radio a pannelli solari, non sono il tossico pentito in scimmia per il fitness. Infatti nel portabottiglie ho una Guinness. Non puoi farli sti salti con un Harley, in giro me la guardano più della tua Audi. La mia bici me l'ha regalata ai miei amici a Natale. Pensarci mi fa bene al cuore, m'è venuta anche fame. Una focaccia pugliese fatta da un egiziano, con due morsi la sprano, dissettandomi al drago verde. Tra i palazzi passa il vento, sembra Capo Verde. Ed un sole così non c'è dall'87. Dicono due vecchiette sulla banchina. E ora siamo con Leonardo Costantini, che gestisce la ciclofficina, il progetto Officina Richiedenti Asilo. Benvenuto Leonardo. Grazie, buonasera a tutti. Allora Leonardo, perché Tommaso Iori ci spiegava che questa iniziativa della Corsa all'Eroica è soltanto una parte delle varie iniziative che hanno a che fare con la due ruote, con la bicicletta e che vengono realizzate in Trentino per cercare di integrare e dare opportunità anche di imparare un mestiere per i migranti e richiedenti asilo. Che cosa fate esattamente? Queste progettualità nascono un po' da lontano, su un progetto complessivo che si chiama Progetto Gira la Ruota, che di fatto è una situazione educativa, formativa che abbiamo costruito negli anni per lavorare con persone con fragilità su prerequisiti lavorativi, anche in un'ottica di sviluppo culturale, diciamo così. Quindi la scelta dello strumento bicicletta come strumento appunto per accompagnare pezzi di strada di persone è uno strumento, è una scelta oculata in questo senso. Circa 3 anni fa, in collaborazione con Provincia di Trento e quindi Cinformi, nel ragionare di costruire dei contesti dove i ragazzi, in particolare in questo caso richiedenti asilo o comunque migranti, possano da un lato occupare il loro tempo disponibile sul territorio nell'attesa che le pratiche burocratiche si completino, quindi occupare del tempo da un lato, dall'altro creare delle situazioni dove possano apprendere in maniera esperienziale la lingua italiana, a fianco poi a delle azioni anche più formative specifiche, ma dall'altra parte, e forse questo è il centro di tutto, è sviluppare un contesto dove poter conoscere le competenze di ognuno e farle riconoscere a loro, anche in chiave, in una logica di accompagnamento ai prerequisiti lavorativi e all'eventuale possibilità di occupazione futura, nel momento in cui poi alcuni di questi ragazzi otterranno la protezione internazionale piuttosto che altri strumenti, insomma. Qui di voi praticamente nell'officina che cosa fate? Allora, noi nell'officina i ragazzi sono coinvolti in una logica di formazione, quindi non è un'occupazione ma è una formazione, noi ripariamo, ricostruiamo, restauriamo biciclette donate dalla popolazione o da enti del territorio, come possono essere, non so, gli amministratori di condominio che hanno la necessità ciclicamente di svuotare le cantine perché ci sono biciclette abbandonate da più tempo, oppure biciclette abbandonate sul territorio in collaborazione con la Polizia Municipale che prima di arrivare in discarica, diciamo così, possono essere invece riutilizzate. Quindi in questa logica di riuso, riciclo, riutilizzo, cerchiamo appunto di fare formazione ma in maniera esperienziale, quindi recuperiamo, restauriamo, rimettiamo in sesto biciclette che poi possano ritornare ad essere utilizzate da chi ne ha bisogno, dalla popolazione, dai richiedenti di asilo stessi. Queste biciclette vengono sostanzialmente vendute all'interno di contesti territoriali che possono essere fiere piuttosto che momenti particolari. C'è un'esperienza a Trento che si chiama Mercato dell'Economia Solidale, nel quale abbiamo sviluppato appunto una collaborazione per poter vendere le biciclette una volta in settimana nel mercato della città di Trento, insomma. dopo una notte in dormiveglia, col panico di non sentire la sveglia. Adesso sto una bellezza. E nonno diceva, ringrazia Dio di averla la bicicletta. Quindi pedala, pedala, finché la schiena si spezza. Pedala, pedala, e non pensarci nemmeno a svegliarti ancora con la luna inversa. Ringrazia Dio che hai una carriera, che pure se bella non è mai certa. E ti conserva la testa fresca. L'adolescenza finisce, il mal di vivere resta. È poco prezzo da pagare per pimparti l'esistenza. Vorrei poter digitalizzare questa gioia e uploadarla sui computer della gente in paranoia. Attivarla ogni volta che qualcuno odia. Perché ho scoperto una cosa preziosa che però non costa. La vita e la bici hanno lo stesso principio. Devi continuare a muoverti per stare in equilibrio. Più pedalo, meno sono stanco. Con la mia bici sono. Quanti richiedenti asilo partecipano alle vostri programmi? Dal punto di vista numerico, in questi due anni complessivamente sui percorsi formativi sulle biciclette sono passati circa una settantina di ragazzi, di varie provenienze, di varie età, quindi molto diversi tra di loro. Allora, i ragazzi vengono, passatemi il termine, selezionati, o meglio, viene chiesta loro complessivamente una disponibilità a far parte di questo programma. Chiaramente abbiamo dei limiti numerici che dobbiamo a cui dobbiamo rispondere, e viene fatta una selezione in base delle competenze base, quindi viene fatta un'analisi di competenze in base a delle caratteristiche anche di motivazione. Quindi dicevo, circa una settantina di ragazzi, ogni ragazzo fa un percorso di circa 48-60 ore a testa, che poi si completa, e per alcuni di loro che si appassionano, che acquisiscono competenze specifiche, prevediamo anche un accompagnamento successivo, come è avvenuto in alcune situazioni, dove alcuni ragazzi oggi, a distanza di due anni, collaborano con officine del territorio, proprio come meccanici di biciclette reali. Diciamo così, l'impatto è sicuramente molto interessante, c'è un tasso di abbandono di questi percorsi bassissimo. Anzi, i ragazzi chiedono di poter fare di più. Il tema principale, a mio avviso, è che sono questi ragazzi, non avendo la possibilità di occuparsi del proprio tempo in maniera costruttiva, molti di quelli che vogliono effettivamente fare un passo avanti nella loro esperienza di migrazione si impegnano in maniera forte, richiederebbero di poterci stare molto più tempo in una dimensione di occupazione, mettiamola così, in senso lato. Non abbiamo mai avuto problemi di relazione. Ecco, sicuramente arrivano persone diciamo così, per caratteristiche culturali e per capacità linguistiche hanno un livello medio-basso, quindi la difficoltà iniziale è proprio quella di riuscire a entrare in comunicazione con persone che hanno lingue molto diverse tra loro, che va dall'urdu fino a un francese dialettale piuttosto che altre lingue, insomma. E ora siamo con Luca Zeni, assessore della provincia autonoma di Trento alla salute e solidarietà sociale. A lui vogliamo chiedere se questi progetti di cui abbiamo sentito, che riguardano Eroica, che riguardano la ciclofficina, fanno parte di un più ampio progetto che porta avanti la provincia autonoma di Trento. Qual è il vostro modello? Ma la provincia autonoma di Trento ha chiesto di poter gestire direttamente l'accoglienza dei richiedenti asilo, quindi non passiamo da una gestione da parte delle prefetture, ma lo facciamo direttamente. Questo ci ha, ha dato la possibilità di adottare un modello che è quello della distribuzione di piccoli nuclei in maniera diffusa sul territorio. Stiamo implementando quindi attraverso l'individuazione di appartamenti, di quindi immobili che consentano di avere poche persone dentro comuni che spesso sono piccoli, e in questo modo abbiamo maggiore accettazione sociale, perché quando ci sono grossi numeri diventa facile avere anche proteste, con i piccoli nuclei diventa più difficile avere proteste. Ci consente di facilitare il coinvolgimento, quindi quelle amministrazioni, quelle comunità che hanno 5-10 persone presenti le coinvolgono in attività di volontariato, che possono essere la pulizia delle strade, ma può essere anche l'insegnamento della lingua inglese da parte dei profughi verso i cittadini, o può essere il coinvolgimento nelle case di riposo, quindi attività che favoriscano l'integrazione. E in questo modo si può creare un percorso virtuoso che fa cadere molte barriere, molti muri che altrimenti possono esserci. Voi quanti richiedenti asilo avete sul vostro territorio? Noi abbiamo una percentuale che rappresenta l'1% del totale nazionale, quindi in questo momento abbiamo 1.400 richiedenti asilo presenti su una popolazione di 530.000 abitanti. Però so che alcuni comuni partecipano molto di più e altri molto di meno. Certo. Questo è dovuto in parte alla disponibilità di immobili che poi si trova effettivamente. Noi abbiamo condiviso con le amministrazioni questo modello e quindi in questo momento abbiamo anche sostegno e supporto da un lato nel cercare di individuare immobili. Molto spesso sono immobili di privati a cui noi paghiamo l'affitto e le amministrazioni aiutano invece nel coinvolgimento delle persone, dei richiedenti asilo in attività di volontariato, e quindi il modello è stato condiviso. In alcuni comuni ancora non ci sono presenze, però abbiamo aperto e stiamo incrementando mano a mano il numero di appartamenti diffusi sul territorio per attuare il modello in maniera compiuta. Si parla insomma della necessità di passare da un modello emergenziale a una situazione più stabile. E, tra l'altro, vedevo i dati della vostra provincia, il 70% vede poi respinta la richiesta di asilo. Come si può venire incontro a un'immigrazione che sì, è in parte di rifugiati e profughi, ma in larga parte in realtà di migranti economici? Questo è un problema reale di cui dobbiamo farci carico, e anche perché da questo dipende anche la reale accettazione da parte della popolazione, o al contrario un senso di ingiustizia che comunque oggi è diffuso. Il tema naturalmente è molto vasto, passa dalle politiche di collaborazione con gli stati, nel nostro caso soprattutto dell'Africa subsahariana, e conta molto quindi su dinamiche anche di tipo internazionale. Certo che la nostra esperienza è quella che ci dice che nel momento in cui riusciamo comunque a coinvolgere queste persone nella fase dell'accoglienza in maniera reale, e quindi creare comunque le premesse per un'integrazione che dia loro un'opportunità di costruirsi un percorso magari lavorativo, quindi un'autonomia, e abbiamo creato le basi per dare una risposta, soprattutto nel caso di accoglimento della richiesta di asilo, perché al termine, nel momento in cui sono considerati, ottengono lo status di rifugiati, comunque devono fare un percorso di autonomia. Se non l'hai costruito in questi, nel periodo dell'accoglienza, diventano un problema dopo in ogni caso, e quindi dare a loro le gambe per camminare dopo è fondamentale. Per gli altri che invece ottengono il diniego, il problema è molto più profondo, perché io credo che sarebbe necessario riuscire a livello nazionale a portare avanti anche politiche di rimpatrio, perché nel momento in cui una persona è irregolare è chiaro che servono delle regole che diano al cittadino anche la sensazione che ci sia un sistema controllato. Sappiamo delle difficoltà per i rimpatri, ma su questo bisogna lavorare nei rapporti bilaterali con gli stati di provenienza. E però anche qui abbiamo comunque creato una possibilità per quei migranti economici che dimostrano capacità, impegno e volontà di aver costruito nel periodo dell'accoglienza delle reti, delle relazioni, delle opportunità di lavoro che magari possono loro permettergli di rimanere sul territorio con un contratto di lavoro secondo le regole dell'immigrazione regolare, non quella dei rifugiati. Grazie, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie a tutti per essere stati con noi, per aver avuto la pazienza di seguirmi anche con questa pessima voce già intaccata dei primi raffreddori dell'anno. Io vi do appuntamento sabato prossimo per una nuova storia che ci parlerà ancora una volta di integrazione, di migrazione. Vi auguro una buona serata. Ciao da Valentina Furlanetto. You've got to give a little. That's the glory of love.